Dietro la notizia con Gigi Donelli. Sono le 8.30, buongiorno a tutti, un saluto da Gigi Donelli, avete sentito dunque nel lancio, oggi parliamo di euro 10 anni dopo e lo facciamo con uno dei padri fondatori della moneta unica, lo ringraziamo di essere con noi, l'ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, buongiorno presidente. Buongiorno a lei caro Donelli. Dunque presidente, oggi vogliamo chiederle il racconto e l'aiuto a raccontare quella che è stata una vera grande avventura. 10 anni più tardi, insomma, le sue prime sensazioni e emozioni nel vedere quanta strada ha compiuto l'euro. Va bene. Siamo qua, domande? Io ci dica, presidente. Allora, oggi come la... Per quanto la memoria mi posso aiutare. Beh, dunque, lei ha vissuto veramente tutte le fasi, lo dicevo nel lancio precedentemente, come governatore della Banca Centrale, come ministro del Tesoro, come presidente del Consiglio e naturalmente come presidente della Repubblica. E tra i ricordi che ci può raccontare è quello di avere tenuto in mano, proprio letteralmente, l'euro con l'effigie di Leonardo. Lei ha raccontato in altre occasioni che è stata una grande emozione. Ci racconti. Ma guardi, io molto come lei ha ricordato, sono diventato governatore della Banca d'Italia nel fine settembre del 1979, proprio quando stava per entrare in funzione il sistema monetario europeo. Il sistema monetario europeo che è stato, la prima operazione verso una moneta comune, ma creiamo un sistema monetario europeo unendo già i paesi attraverso un tasso di cambio che era variabile, insomma, aveva però dei legami, fu l'inizio. Poi ho vissuto tutta la vicenda successiva, in particolare quando fu costituito il Comitato Delors nel 1988, in un anno portava in porto il lavoro che fu concluso nella primavera dell'89, di concordare tutti i governatori in questo comitato che era presieduto dalla Presidente della Commissione Europea Jacques Delors, una proposta concreta per come attuare la moneta comune. Ecco, quello presidente erano anche anni di grandi tempeste monetarie, lo ricordiamo. La lira era fuori dallo SME, lei fu costretto anche a battagliare per riportare all'interno del sistema quella che era una lira molto fragile. Avemmo una serie di crisi valutarie in molti paesi d'Europa, appunto fra i quali appunto, purtroppo il nostro paese, in quanto che il sistema monetario europeo prevedeva un tasso di cambio di riferimento che poteva essere variato quando il paese non è più in grado di mantenere le quotazioni intorno al valore prefissato, e questo avvenne per vari paesi. La prima svalutazione, mi ricordo, fu fatta da un piccolo paese, la Danimarca. Noi abbiamo svalutato più volte, finché poi ci trovammo in piena crisi, in particolare nel 1992, che fu una crisi del sistema alla quale non sapemmo uscire noi europei, e quindi portò praticamente all'uscita dal sistema monetario europeo della sterlina, della lira e la forte sfruttazione di altre monete. Però andò avanti il progetto della moneta unica, nonostante tutto questo. Allora l'Italia nel 92 fu una crisi veramente paurosa, perché non fu tanto, e questi italiani lo hanno percepito poco, perché appunto per motivi proprio di evitare una gravissima crisi non ne parlammo troppo a lungo, ma il vero problema era quello del mercato finanziario. I titoli di Stato italiano non venivano più acquistati dai mercati. E quindi quella fu la vera crisi, l'abisso sul quale ci trovavamo di avere uno Stato praticamente inadempiente ai propri impegni presi emettendo titoli. Ecco, in che modo la strada dell'euro diveniva, inevitabile, oltre che indispensabile, proprio per non cadere in questo abisso che lei ha descritto? Per noi partecipare all'euro diventava il punto chiave, appunto, perché io sostenni la partecipazione dell'Italia all'euro, che come sai era considerata impossibile dalla maggior parte dei paesi che facevano parte del primo nucleo della costituente Unione Monetaria, però sostenendo che era necessario per l'Europa e per l'Italia. Per l'Europa nel senso che una moneta comune senza l'Italia paese mediterraneo per eccellenza, significava creare una moneta unica mitteleuropea, limitata cioè praticamente ai paesi dell'Europa centrale. Quindi non accoglieva quella che è vero la componente più antica, più storicamente più importante dell'Europa, cioè il Mediterraneo. Ecco, allora il nucleo iniziale era composto da 11 stati, quindi 11 stati che rinunciarono alla loro sovranità monetaria. Nei suoi discorsi di fine anno, Presidente, nel settennato, lei ogni anno parlò di euro e in qualche modo aiutò tutti noi a entrare in quest'ordine di idee, in una costruzione in cui c'era più spazio per l'Europa, c'era spazio ampio per quello che era il patriottismo, la bandiera, che sono stati appunto dei suoi temi forti nel settennato, e nello stesso tempo rinunciare alla sovranità sulla moneta. Guardi, questo è stato un passaggio importante per l'intera Europa, perché noi ci avviavamo in un'Europa divisa che rimaneva divisa fra gli stati nazionali, con il dominio inevitabile sotto il profilo monetario di una moneta che era il Deutsche Mark, che ovviamente era il paese più stabile intorno al quale si muovevano gli altri paesi. Creare la moneta unica ha significato veramente allontanare per sempre l'Europa delle guerre fratricide. Io ricordo, l'ho menzionato più volte, un mio colloquio da Presidente del Consiglio appena nominato, quindi siamo nel giugno del 93, a Bonn con il cancelliere Kohl, al quale dissi con tutta franchezza che il mio punto di vista era che o si faceva l'Unione Monetaria Europea subito e questo diventava il punto di non ritorno verso anche un'unione politica, o altrimenti avremmo lasciato l'Europa divisa con l'inevitabile conseguenza che nel tempo sarebbero riaffiorati i nazionalismi e con i nazionalismi il pericolo degli spettri degli anni 30, dei regimi dittatoriali. L'Europa era la vera garanzia di pace per l'Europa e per il mondo. Presidente Ciampi, a proposito del Deutschmark, con Theo Weigel, a suo tempo ministro appunto del Tesoro delle Finanze della Germania, lei ebbe un eccellente rapporto, ma anche degli scontri, una vera e propria battaglia per definire i rapporti di peso e di potenza tra lira e marco tedesco. La battaglia fu lunghissima, perché molto, come lei sa, per poter essere ammessi nell'euro bisognava rispettare alcuni criteri, fra cui certi rapporti. Il rapporto principale da osservare era il rapporto fra il disavanzo e il prodotto interno lordo, che non doveva essere maggiore del 3%, come tuttora è la regola. Noi allora partimmo addirittura da percentuali enormi, ma anche nel 1986 avevamo chiuso con il 7,5% di rapporto di disavanzo PIL, quindi ben lontani dal 3%. Io ho preso gli impegni in un anno, d'accordo con il Presidente del Consiglio Prodi e tutto il governo, di portarlo al 3%, e fu una sfida veramente quasi impossibile. All'estero nessuno ci credeva, in particolare appunto gli amici tedeschi in particolare, tanto che quando raggiungemmo a fine 1997 un rapporto 2,7, sorsero le voci che noi avevamo fatto i trucchi che avevamo nascosto, la spazzatura sotto i tappeti, e io dovetti girare per l'Europa, in particolare la Germania, per dimostrare che questo non era vero, e riuscii a convincere. I più duri da convincere furono i tedeschi e gli olandesi. Una lunga che poi appunto si è risolta in un'amicizia personale, sia con gli esponenti tedeschi, Weigel e appunto Titi Meyer, che era appunto il presidente della Bundesbank, sia però con il ministro olandese Gerrit Salm. Presidente, da pochissimi giorni le nazioni, appunto i paesi che aderiscono all'euro, sono ormai 16. La Slovacchia, l'ultima arrivata, addirittura non esisteva sulle carte geografiche ancora quando lavoravate sulla costruzione dell'euro. Che effetto le fa questo successo evidente? Guarda, questo è stato il grande successo dell'euro. 10 anni, io ho avuto l'onore, sono stato chiamato 2 volte a essere, diciamo così, a fare la laudatio dell'euro. Cioè, quando all'euro fu assegnato il premio Carlo Magno, fu deciso molto che la laudatio la facessi io. Nel 2002 ad Aquisgrana. Ad Aquisgrana, esattamente. Poi, appunto, quando era più di recente, a Francoforte si è celebrato il decennale della moneta unica, cioè nel giugno scorso, sono stato chiamato io da Trichet a tenere anche lì il discorso celebrativo. Questo è stato un riconoscimento all'Italia, al sottoscritto dell'azione svolta a favore della moneta unica. Presidente, il successo è stato enorme, perché ricordiamo che quando noi creiamo l'euro, i dubbi, non solamente in Italia, erano fortissimi. Cioè, si riteneva che mettere insieme paesi così diversi sotto il profilo dell'andamento economico, appunto, come appunto quelli che lei ha citato, noi compresi, avremmo creato due rischi: o i paesi deboli non avrebbero resistito a stare nella moneta unica, o i paesi forti sarebbero stati inquinati dai vizi dei paesi inflazionistici, come quella era considerata l'Italia, dei paesi spendaccioni. Questo non è accaduto. In 10 anni l'euro si è affermata, siamo partiti in 11, siamo in 16, rappresenta la moneta di ben oltre 320 milioni di abitanti, diventerà sempre più ampio il campo delle regioni alla moneta unica, lo vediamo che proprio anche nei momenti di crisi come il presente, l'euro è vista come un'isola di stabilità e anche paesi che non fanno parte dell'euro oggi considerano l'opportunità di chiedere di entrare nell'euro. Effettivamente, Presidente, in questi giorni, proprio dalla piccola Islanda, che in qualche modo si racconta con una amara ironia che gli 250.000 islandesi sognano l'euro che non hanno avuto dopo 10 anni di grandi successi della corona, improvvisamente crollata. Basta guardare le quotazioni sul giornale per vedere che il valore si è ridotto di un terzo, ma c'è anche la Danimarca che riflette, c'è la Svezia persino, cioè quel nord che in qualche modo ha guardato altrove. Perché oggi questo è appunto, guarda, ma il successo che già l'euro ha avuto, appunto sui mercati, perché è diventata una moneta molto diffusa di transazioni commerciali e finanziarie, il successo che ha avuto come moneta di riserva, perché è data appunto anche la sua stabilità, guardate, sono successi che direi quasi al di là di ogni più ottimistica speranza. Pronto, Presidente? Pronto. Volevo poi sottolineare che per quanto riguarda l'Italia non si considera mai abbastanza il vantaggio che noi abbiamo avuto per quanto riguarda gli oneri del debito pubblico. Noi abbiamo un debito pubblico che spesso giustamente viene ricordato, ma pensi che fino al 1995, 96, 97 gli interessi che l'Italia pagava per finanziare il debito pubblico rappresentavano una percentuale del prodotto interno lordo superiore al 10%, mediamente dell'11-12%, cioè 11-12% del nostro reddito nazionale andava via per pagare gli interessi sui titoli che venivano emessi per finanziare il debito. Oggi il Tesoro paga un importo che varia fra il 5,5%, cioè la metà in termini di reddito nazionale di quello che pagava allora, nonostante che il debito nel frattempo è aumentato perché tuttora viviamo in disavanzo. Certo, questa mattina parliamo di euro, lo facciamo con Carlo Azeglio Ciampi. Presidente, ancora grazie di essere con noi. Abbiamo, come dire, ripercorso con lei i momenti della costruzione. Veniamo ai problemi, i problemi dell'euro. Io ho preso spunto da un articolo uno di quegli articoli che possiamo ritrovare in questi anni più volte sui quotidiani. Il titolo era: ero ricco con 2 milioni di lire, ma mi sento povero con 1.350 euro. Ecco, esiste una sorta di contraddizione sul ruolo dell'euro, così forte fuori, non così amato all'interno. Perché, Presidente? Ma è molto diviso, naturalmente. C'è un attaccamento anche spiegabile alla moneta nazionale in tutti i paesi. Lei pensi, insomma, se noi che avevamo la lira, la povera lira, l'esetta, la ripiangiamo così con nostalgia. Pensi in paesi come la Germania che avevano il Deutsche Mark, che era l'orgoglio nazionale, insomma. Ovviamente c'era un sentimento di affetto verso la propria moneta che naturalmente storicamente rimane. Detto questo, c'è stata certamente una certa leggerezza nel modo col quale è stato fatto il cambio della moneta. Cioè, non si è data abbastanza cura al seguire il cambio, tanto si poteva, per esempio, più a lungo avere la doppia quotazione nei prezzi, in lire e in euro, per abituare più lentamente le persone al passaggio dalla lira all'euro. Si poteva avere un maggiore controllo nei mercati per vedere appunto come appunto i commercianti facevano il passaggio. Purtroppo si è affermata presto, da parte di alcuni settori, una tendenza a cercare di dire una lira uguale 100 lire uguale un euro. Ora appunto c'è, cioè, praticamente fare il cambio uno a uno, come certo, perché prima il changeover è stato fatto, diciamo, sui 1936-27, vabbè, immediatamente l'abbiamo tutti parificato a 2000 lire, dopodiché però eravamo abituati all'idea di un euro mille lire, e invece questa, diciamo così, tendenza a parificare, fare uno a uno, doveva essere più contrastato attraverso controlli nei mercati, controlli sul comportamento degli operatori, cosa che non c'è stata abbastanza. Forse, ripeto, un periodo più lungo di transizione con la doppia quotazione avrebbe indotto a essere più aderente a quello che era appunto il cambio ufficiale di guerra di oltre 1900. Questa è stata un po' una. Si poteva, per esempio, appunto, è stato detto da alcuni, anche da un degli attuali ministri, che forse era bene fare anche, oltre che una moneta da un euro, anche un biglietto da un euro. Forse questo era utile. Questo, cioè, si è discusso a lungo, l'idea di avere il biglietto da un euro, che fosse un po' un simbolo di il maggiore valore che quest'euro, che questa moneta ha, ovviamente. Ora, ecco, sono tutti, non c'è dubbio che il cambio della moneta poteva essere fatto con più cura, con più attenzione in tutti i paesi, poi in particolare nel nostro. Il changeover, dunque, però allora, Presidente, in questo, diciamo, momento conclusivo, proviamo a immaginare anche un po', per sgombrare queste nuvole, che cosa sarebbe accaduto se oggi non avessimo avuto l'euro? Lei ha menzionato all'inizio le vicende veramente difficili della lira, con tutte le svalutazioni che ebbe nel periodo del sistema monetario europeo. Pensi cosa sarebbe stato della lira, della nostra moneta, della nostra finanza, in questa, una crisi come la presente, così grave dal punto di vista finanziario. Penso all'Islanda, inevitabilmente. Questo è veramente, si poteva rischiare quello che ugualmente rischiamo nel 92, cioè il dissolvimento della moneta. Rischiare il caso del paese, dello Stato non più in grado, come è successo in Argentina, di fare onore ai propri debiti, ai propri impegni. Questo rischiavamo. Un orizzonte decisamente fosco. Presidente, prima intanto io la ringrazio ancora una volta per essere stato con noi questa mattina. Vorrei poi però concludere ricordando avanti. Sì, ricordando ai nostri ascoltatori e segnalando un lavoro che lei sta facendo, un lavoro online, www.carloazegliociampi.it è una raccolta formidabile di documenti, di immagini, di memoria, direi. Guardi, io quando c'è stata appunto la mia vita pubblica, appunto che terminato praticamente con la conclusione del settennato quirinale, appunto mi sono dedicato soprattutto a rendere testimonianza. Quindi ho cercato di mettere in ordine le mie carte, di rendere tutto quanto a disposizione del pubblico, appunto con un sito su internet, e questo è stato il mio lavoro di questi 2 anni e mezzo, da quando appunto ho cessato per la Presidenza della Repubblica. Ritengo che la mia opera è nel senso di spingere a che si vada avanti in Europa. Bisogna far sì che l'Unione Europea vada ancora avanti fino ad arrivare a un'Europa che parla con una sola voce, questo in tutti i campi. E vediamo in questa crisi anche presente, sia finanziaria, sia una crisi anche del Medio Oriente, certo, quanto, diciamo così, manca una voce unica europea. Proprio questa mattina i commenti legati al Medio Oriente sono intorno a, di nuovo, a questo gigante economico che si fa piccolo nella politica estera. L'Europa. L'altra cosa sul quale io insisto, e ho sempre insistito, se lei scorre anche i miei scritti, anche tutte le considerazioni finali che ho svolto dal governatore, l'importanza preminente che ha l'economia reale, cioè la produzione, gli investimenti, l'occupazione sull'economia finanziaria. La crisi finanziaria che stiamo vivendo, che è scoppiata molto pochi mesi fa, è la dimostrazione di questo assunto. Non si è data più importanza all'economia finanziaria che all'economia reale. Ora, l'economia reale è la base, l'economia finanziaria viene dopo, viene. Questo è stato un mio principio che ho sempre, se lei prende i miei scritti, vede che sempre parlo molto della sostanza dell'economia, non dell'apparenza dell'economia. Assolutamente. Questa è una cosa sul quale tengo molto, le preeminenze dell'economia reale sull'economia finanziaria. Averlo dimenticato è all'origine della crisi che stiamo attualmente attraversando. Presidente, io la ringrazio molto. Carlo Azeglio Ciampi, decimo presidente della Repubblica, è stato, e come avete sentito in questi 20 minuti in cui abbiamo cercato in qualche modo di condensare l'impossibile, cioè una storia di decenni attraverso il suo ruolo come governatore della Banca d'Italia, come ministro del Tesoro, come presidente del Consiglio e come il presidente della Repubblica che ha portato agli italiani, non solo simbolicamente abbiamo visto, l'euro. Grazie di essere stato con noi. Un saluto soprattutto ai giovani, a loro mi rivolgo sempre con grande speranza. Io vedo i giovani che oggi viaggiano per l'Europa, approfittano della realtà europea unitaria per una formazione culturale che è molto diversa e molto più avanzata di quella che poteva avere la mia generazione. E ripeto loro quello che è importante, che l'Europa delle guerre fratricide ormai non può più esistere. Questo è un beneficio enorme, una cosa importante per gli italiani, per gli europei, per il mondo. Arrivederci, dottore. Grazie Presidente, a risentirla spero presto. Bene, avete sentito insomma come in questa storia umana, personale, che è quella della moneta unica, si intreccino ineluttabilmente la storia dell'Europa, la storia di una generazione di figure, di uomini politici, lo ricordiamo, i ventenni che ora il presidente Ciampi salutava, i ventenni della sua generazione erano impegnati tra l'armistizio, l'8 settembre, la guerra di liberazione, insomma, se vogliamo proprio riscorrere, no, anche mentalmente quella che è la storia individuale di figure appunto come il presidente Ciampi. Nello stesso tempo abbiamo parlato oggi dell'euro. Bene, l'euro è diventato in questi anni, al di là di tutte le complessità, un elemento centrale anche della cultura popolare. Mi piace ricordare, anche per concludere con un sorriso, che accadono cose quest'anno, come per esempio assistere a una richiesta da parte di Dominic Green, che è il cattivo dell'ultimo episodio di 007. Bene, il cattivo di 007 questa volta chiede il soldo e lo fa per la prima volta e lo pretende in euro e lo fa in qualche modo con un certo smacco per 007, appunto agente di Sua Maestà la Regina, ma nello stesso tempo entra nel rap e quindi Jay-Z, rapper che nel suo video mostra e sventola le banconote da 500 euro. Insomma, una storia naturalmente con delle ombre, ma che è anche la storia di una grande affermazione e una vera e propria avventura, non certo solo economica e finanziaria e monetaria, di questi ultimi anni. Con questo abbiamo concluso questo appuntamento. Un ringraziamento a Carmelo Lauricella, che è in regia questa mattina. Dietro la notizia torna domattina.